Radio 24 Reportage. Inshallah Europa. Castel Volturno, la città irregolare, di Giampaolo Musumeci. Che cos'è Castel Volturno? Un concentrato di tensioni sociali, abusi edilizi, infiltrazioni camorristiche, un'erma bifronte sospesa tra Africa e Europa, una città, anzi due, una regolare e l'altra irregolare, un pezzo di continente nero tra il mare e la via Domiziana? Castel Volturno, la città dei neri, Castel Volturno, la città degli irregolari, 6.000 dicono alcuni, 15.000 dicono altri. Ma anche la città del villaggio Coppola, oramai poco più di un reperto archeologico frutto dell'arroganza imprenditoriale del passato di una potente famiglia locale. E tutto intorno lo scempio di una secolare pineta di rara bellezza. Castel Volturno è anche tutto questo, tutto insieme. Arrivo a Castel Volturno attraversando quasi tutta la provincia di Caserta, passando da Santa Maria la Fossa e Grazzanise. La strada attraversa i campi e costeggia decine di allevamenti di bufale. Un Cristo a braccia aperte accoglie i clienti di un caseificio. Arrivo in centro. Una piazza, il bar dall'ottimo caffè espresso, la chiesetta, due panchine. Una graziosa passeggiata sul lungo Volturno, tre barche attraccate. Poi, in bocca alla Domiziana. Una lingua d'asfalto che corre veloce lunga 27 km da Mondragone giù fino a Pozzuoli. Alberghi, chioschi e negozi gestiti da africani, officine gestite da italiani. E poi attorno una rete di strade, grandi e piccole, che la circondano. Questa è la Domiziana. Qui c'è l'American Palace, il simbolo della Castel Volturno nera. Un edificio abitato esclusivamente da africani, su cui tanto hanno insistito le telecamere all'indomani della strage dei sei ragazzi ad opera della Camorra l'autunno dell'anno scorso. Se sulla Domiziana puoi sentir parlare italiano e napoletano, appena ti inoltri nel dedalo di vie spesso sterrate tra la statale e il mare, lì dimenticati di essere in Italia. Sentirai solo l'Africa che parla. Claudio Dell'Aquila e Elisa Laudiero, due giovani volontari dell'ARCI CGL di Caserta, mi fanno da guida tra le villette che una volta erano le seconde case della borghesia casertana e napoletana e ora sono affittate agli immigrati. La cosa che più colpisce è che pur queste persone, pur essendo in Italia, non parlano assolutamente una parola di italiano. Il che è strano, perché magari una buona parte di loro è in Italia da parecchio tempo. Eppure non ha imparato a parlare in italiano, simbolo di un'integrazione mancata, voglio dire. Il problema secondo me anche è che non ne hanno bisogno in questo stato di... La cosa più paradossale è che loro non ne hanno bisogno, perché cioè, loro si svegliano la mattina alle 4, vanno a lavorare, non so, dentro un muratori o sono agricoltori. Quindi cioè, i contatti con gli italiani non sono pochi, voglio dire, cioè, se tu stai lavorando nelle campagne non è che ti metti a parlare con il datore di lavoro. No, nel senso che magari passa il caporale, li tira, esatto, su alle 4 del mattino e danno i soldi alla fine, se sono fortunati, o se no li picchiano, voglio dire, oppure li lasciano lì, non lo so. E poi ci stanno, cioè, poi ritornano a casa, no? Siccome sono poi dentro una sorta di ghetto, no? Allora continuano a parlare con tra di loro, non hanno la necessità di farlo, hai capito? Questa è la cosa più particolare, non hanno la necessità di parlare italiano. Non serve l'italiano per spezzarsi la schiena nei campi e nemmeno per lavorare nei cantieri. A ben vedere serve a chi spaccia droga, tanta, e a chi fa della prostituzione il suo business. La mafia nigeriana, un pezzo della Castel Volturno africana, si dà da fare. I contatti col clan dei casalesi sono consolidati. Basta aspettare il tramonto e farsi un giro sulla Domiziana. Prostitute di 15 anni a dir tanto, dal trucco acceso, quasi violento, ammiccano a qualsiasi auto che rallenti, in prossimità delle rotonde che frastagliano la statale. Ti lascia alle spalle una Castel Volturno, ne scopri un'altra. The meaning of the song that we are saying, we must all people, Toto, Italians, everybody, we must all unite in Italy here so that Italy will be a good nation. Great song. Thank you very much. Sami mi accoglie così, con una canzone che dice che noi tutti, italiani e africani, dobbiamo essere uniti e così l'Italia potrà essere migliore. Siamo in una fatiscente casa all'interno di quel dedalo di vie polverose tra Domiziano e Lungomare, in quell'intricato labirinto in cui è bene non avventurarsi da soli. In effetti da qui il mare è inaccessibile, c'è una selva che sembra più un bush africano. Sami ha raggiunto il marito che lavora qui a Castelvolturno da anni ed è regolare. Lei no, vivono in due con lo stipendio di lui. Light, water. At the rest you pay about 300 euro and imagine at the end of the month you collect about 600 euro. Come faccio a campare con 600 euro al mese? E spendo 300 in affitto per questa casa, l'avete vista? E come faccio a mangiare e a mandare i soldi in Africa? Non ci pagano il giusto perché siamo neri. Se tu tratti uno così, vuol dire che lo vuoi far diventare uno spacciatore, lo costringi così. Io sono un'infermiera professionale e da 4 anni non trovo un lavoro in Italia. Com'è possibile? E allora che cosa ti aspetti che io faccia? È chiaro, vado sulla strada, vado a fare la prostituta. Tu mi costringi a fare la prostituta, così almeno potrò mangiare. Voi dovete darci i documenti, così noi possiamo lavorare. Il governo italiano deve fare qualcosa per questa situazione, perché questa situazione sta rovinando l'immagine dell'Italia. Se qualcuno mi chiede com'è l'Italia, io ne parlo male. Ci trattano male, ci trattano come animali, non ci considerano. Io lavoravo come infermiera in ospedale in Ghana, ma senza documenti. Non posso farlo in Italia. Quando chiamo casa, i miei figli mi chiedono «Che stai facendo?» E io dico «Sono a casa, a fare nulla». E non posso nemmeno tornare indietro ora, ma in questa situazione preferisco di gran lunga il mio paese. Ma adesso vi spiego perché sono venuta in Italia. Sono venuta in Italia per imparare qualcosa da voi, non solo per denaro. Questo è quello che gli italiani pensano di tutti i neri che vengono qui. Per denaro? No. No, non è così. Sono venuta qui per imparare, per accrescere la mia conoscenza, per vedere come lavorano gli italiani. Ma appena sono arrivata qui, è stato diverso. Anche se ti permettono di lavorare con loro, un italiano è un italiano, un africano è un africano, e un'infermiera nera all'ospedale, no. Non importa quale sia la tua preparazione. Come potete imparare anche voi qualcosa da noi se non lavorate con noi, se non comunicate con noi? In Africa è diverso. Quando arriva un italiano, noi lo accogliamo, comunichiamo. Io non sono venuta per soldi, ma per viaggiare. È importante per crescere come persona. I particularly didn't come to Italy because of money. No. At least it's good for you to travel and see something for yourself. Yes. La situazione di Sami è quella di tanti altri. Non tutti scappano da guerre o chissà quali persecuzioni. Molti cercano semplicemente di cambiare vita, di fare fortuna in Europa. Ora dormono in 3 o 4 prestanze nelle villette che una volta erano oasi di villeggiatura. Poi, dopo il terremoto dell'80, furono occupate dai profughi del sisma e infine, da una decina d'anni, affittate con guadagni esorbitanti da parte dei proprietari agli immigrati. 100-200 euro un posto letto, anche in 20 in una casa. I calcoli sono facili da fare. Noi ghanesi soffriamo molto questa situazione, perché la commissione che esamina le nostre richieste ha detto che in Ghana non c'è la guerra. È un paese pacifico e così ha rigettato le nostre domande di asilo. Ma anche noi abbiamo i nostri problemi, magari familiari o altre necessità. Noi ghanesi lavoriamo sodo qui, però leggiamo sui giornali che gli immigrati rovinano l'Italia. Ma noi lavoriamo 16 ore al giorno per 20 euro. Io, per esempio, devo aiutare mia madre che ha 3 figli. Devo guadagnare del denaro da mandare a casa per far andare a scuola i miei fratelli. Ecco perché sono qui. E poi, molti di noi sono qui per proteggere la propria vita. Anche se non c'è guerra, ci sono spesso violenze e scontri e pericolo di essere uccisi, specie nel nord del paese. Così, richiedenti asilo, potenziali o presunti profughi e gente che non avrà mai diritto al permesso di soggiorno si ammassa qui. Poi, chi ottiene l'agognato permesso se ne scappa a gambe levate verso il nord dell'Italia, in cerca di lavoro. Ma quanti sono davvero gli irregolari qui a Castelvolturno? Un censimento è impossibile, sarebbe come contare i fantasmi. La realtà è che secondo noi le cifre sono state molto gonfiate, strumentalizzate, perché non sono 15.000 persone. Probabilmente si calcola che tutto sommato di questi, non sono 15.000, sono 6.000 persone irregolari. In totale la popolazione in Castelvolturno di immigrati si aggirerebbe intorno, mi pare, 20.000 abitanti, non ne sono sicuro, ma di irregolari sono 6.000. Di questi 6.000, come facciamo a dire chi è irregolare e chi non lo è? Perché molti di loro vengono con un visto, hanno un passaporto, un documento di identità in un certo senso. Molti di loro hanno fatto la domanda e sono in attesa, sono irregolari anche loro. Molti di loro hanno rifiuto dalla commissione, però cioè hanno hanno fatto ricorso, eccetera. Quindi quello è il ragionamento. Di questi 6.000, la stragrande maggioranza delle persone non è che si è rifiutata di essere accettato di essere irregolare perché magari, non so, facevano le prostitute o spacciava droga. Queste persone vogliono regolarizzarsi, hanno fatto tutto ciò che gli era consentito fare dalla legge italiana per regolarizzarsi, però sono definiti irregolari. Anche perché poi capita proprio questo, capita che molto spesso, cioè soprattutto a Caserta, la situazione per cui nei permessi di soggiorno è molto lunga, eccetera, capita che ecco ci sono problemi di rinnovo dei permessi di soggiorno, per cui il cittadino irregolare, cioè il ragazzo praticamente che deve rinnovare il permesso di soggiorno, non lo può fare perché magari non ha un certificato, una residenza. Purtroppo nella mentalità collettiva invece si pensa che loro scelgono di essere irregolari per intraprendere cose illecite, ma non è così, insomma. Ma non solo, molti di loro hanno, le persone tra virgolette cattive, sono quelli che in molti casi hanno il permesso di soggiorno, perché se io, non so, faccio il trafficante di droga, ok? Mi metto nella sua testa, devo essere messo in condizione per cui se giro con la macchina devo avere l'assicurazione a posto, devo avere la patente, devo avere un permesso di soggiorno, in modo tale che evito certi controlli. Se io sono irregolare è un più facilità ad essere beccato dalla polizia, eccetera. E in molti casi capita proprio questo, capita che chi è regolare, in molti casi, ha un permesso di soggiorno e si dedica a certe attività. Oppure, per esempio, talvolta anche a soggiogare gli stessi diciamo, compaesani. Perché ecco, avendo il permesso di soggiorno si erge a un potere, protettore, in un certo senso. Regolari o irregolari, sfruttatori o sfruttati, vittime o padroni, i confini a volte sono labili, i ruoli non sempre definiti. Ma qui siamo a Castelvolturno, nel limbo in cui convivono problematiche, urgenze ambientali, presenze mafiose e tensioni sociali, sempre pronte a esplodere.